di una circolare che il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha inviato a tutti i direttori delle carceri, direttori o direttrici delle carceri, perché tengano conto di questo incremento di temperatura, di questo caldo tremendo, opprimente che c'è, che come ho detto più volte in carcere si soffre 10 volte di più che fuori, in carcere è allucinante. È una circolare che non credo che i direttori abbiano fatto conoscere ai detenuti e detenute, anche se sarebbe opportuno che lo facessero. E allora ebbene, sono 5 punti che adesso vi racconto, indicazioni che dà il DAP per conto del Ministero ai direttori del carcere perché mettano in atto, e quindi li dico, così chi sta in carcere se li può segnare e poi richiedere al direttore che li metta in atto queste agevolazioni, in qualche caso dovute all'alto caldo che c'è nelle carceri, che c'è dappertutto e quindi ha maggior ragione nelle carceri. E dall'altra parte anche perché ne possono prendere nota quelle persone che stanno fuori, che hanno degli amici in qualunque carcere d'Italia, perché possano raccontarlo. Allora, un attimo e ve le racconto. Passer par où je suis passé famille. Où je suis pas non plus les trottoirs de Manille, du Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher et traîner quelque part. Et traîner quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Allora, diciamo, ecco qua i punti che in questa circolare emessa dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per conto del Ministero della Giustizia ai direttori del carcere. Il titolo è Emergenza Caldo. Ora, a parte la premessa per rendere meno afflittivo il caldo, eccetera, eccetera, questi sono i punti che dovrebbero mettere in atto i direttori dei carceri. Allora, uno, prevedere una diversa modulazione. Leggo il loro linguaggio, poi casomai lo traduciamo, è un po' burocratese, come potete immaginare. Allora, prevedere, quindi l'indicazione che dà il Ministero al direttore del carcere, prevedere una diversa modulazione degli orari dei passeggi per evitare che le persone siano, le persone detenute siano all'aria nelle ore più calde della giornata. Sapete che l'ora normalmente le ore dell'aria sono la mattina dalle 9 alle 11 e il pomeriggio dall'1 alle 3. Ora, quella dalle 9 alle 11 può anche restare, ma quella dall'1 alle 3, dalle 13 alle 15, quindi è l'ora più calda che c'è. Quindi in realtà già anni precedenti avevamo ottenuto, grazie alle lotte e alle mobilitazioni, spostare quell'ora d'aria, quelle due ore d'aria del pomeriggio, non dall'1 alle 3 perché è impossibile stare all'aria se si cuoce, soprattutto qui. Diciamo, quei cortili che sono delle vasconi di cemento diventano dei forni, ma dalle 5 alle 7 o dalle 6 alle 8. E difatti questo dice il Ministero ai direttori, di modulare, quindi dislocare i passeggi non nelle ore più calde, ma quindi chiedete questo ai direttori se non l'hanno fatto, perché è previsto da qui, l'indicazione del Ministero ai direttori. Il secondo punto è assicurare l'implementazione e la funzionalità dei cortili di passeggio, nei cortili di passeggio, dei punti dei getti d'acqua, dei punti idrici a getto o a nebulizzatore, cioè mettere a punto nei passeggi dei punti dove possa sgorgare acqua fresca per rinfrescarsi, oppure nebulizzatori. Questo è il secondo punto. Terzo, realizzare laddove è possibile, sempre nei passeggi, delle zone ombreggiate. Quarto, favorire la permanenza dei detenuti negli spazi che, per le caratteristiche strutturali, possano assicurare una maggior comfort quanto al refrigerio, cioè prevedere nelle carceri dei luoghi di socialità, anche dei cameroni dove si può mettere anche dell'aria condizionata o comunque altri tipi di un ventilatore, altri tipi di refrigerio, per fare ritrovare lì il pomeriggio i detenuti, per evitare che si bollano in cella. Ancora l'altro punto, nel caso che in alcuni istituti si realizzi una carenza d'acqua, si dice ai direttori di provvedere alla fornitura ai detenuti di acqua potabile gratuitamente, quindi bottiglie di plastica con acqua, oppure e anche perché le bottiglie d'acqua per bere, ma anche taniche piene d'acqua da utilizzare per gli altri usi, laddove come in alcuni posti di questo paese c'è carenza idrica durante l'estate. Ancora poi mettere nei corridoi dei reparti dei frigoriferi per poter tenere per esempio i cibi, perché i cibi con questo caldo in cella vanno a male dopo poche ore. Questo punto qua. Poi ancora, aspetta un po'. Fare in modo che il cibo fornito ai detenuti sia più adatto al periodo caldo, quindi maggior verdure eccetera, e soprattutto poi consentire di comprare ai detenuti di comprare cibi adatti a combattere questo caldo. L'altro fatto importante è assicurare l'apertura dei blindo, delle blindate, le porte blindate, durante anche le ore notturne, in modo che ciò può favorire il cambiamento dell'aria. Questo è molto importante, perché invece in genere, appunto, come sapete, dopo la conta delle 23, in qualche carcere anche prima, vengono chiusi i cancelli e anche le blindate. Chiudendo le blindate l'aria non circola più, quindi diventano dei forni anche le carceri, questo sono i consigli. Ora cercate di fare in modo che coloro che se siete detenuti prendete credo che avete preso nota di questi punti. Chi sta fuori lo stesso ne dovrebbe prendere nota per poi mandare gli appunti a dei amici che stanno nelle varie carceri o amiche. E nel caso non avete fatto in tempo, se riascoltate questa trasmissione, che nel pomeriggio verrà messa come podcast sul sito di Radio Onda Rossa, quindi potete riascoltare e prendere con tranquillità nota di questi punti. Questi punti sono importanti perché sono una direttiva che il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, cioè il Dipartimento del Ministero della Giustizia che sovrintende le carceri, ha mandato ai direttori del carcere perché ne tengano nota. Le applicano, e quindi se i gruppi di detenuti le chiedono è possibile che la ottengano. Allora, riprendiamo dopo aver dato questa indicazione, di cui preghiamo di prendere nota, soprattutto alle persone che stanno fuori, che possono quindi riascoltare la trasmissione, prendere nota di questi 7 punti che il Ministero consiglia ai direttori delle carceri di mettere appunto, no? E quindi se i detenuti le chiedono, ovviamente sono costretti a metterle in piedi. Permettono di portare granché sollievo alla situazione carceraria, però insomma perlomeno evitare il massacro che questo caldo contribuisce a verificare. Diciamo, facendo il punto un po' di tutti i drammi successi in questo anno, i due punti messi in luce non solo da noi, perché ne abbiamo parlato in tutte queste trasmissioni, chi ascolta questa trasmissione avrà visto come l'abbiamo sottolineata più volte, ma anche da Antigone nelle ultime sue relazioni ha messo in luce questo aspetto, per esempio i suicidi, vedendo il 29esimo che è successo qualche giorno fa qui proprio a Rebibbia, il carcere romano di Rebibbia, e anche soprattutto le particolarità di questo suicidio un po' complicato, cioè sono tutti complicati, però questo in cui ci sono delle inadempienze particolari anche dell'amministrazione penitenziaria, quindi questo punto è il punto del suicidio, che quindi pare che stia rincrementando il numero dei suicidi. L'altro punto è quello che sta di nuovo rincrementando anche il sovraffollamento. Perché? Allora, vediamo i suicidi. Allora, i suicidi, appunto, siamo giunti al 29esimo con quest'ultimo di Rebibbia di qualche giorno fa. Al di là delle motivazioni gravi, che pure hanno appunto molto gravi, ogni suicidio ha una sua specificità grave, perché il soggetto, la persona detenuta che mette in atto il suicidio, sicuramente non solo vive una devastazione fortissima che lo spinge al suicidio, ma anche ci sono delle inadempienze da parte dell'amministrazione penitenziaria. Allora, Antigone, che è un'associazione di tutto rispetto, è tra le migliori, anzi forse è la migliore, che si occupa di migliorare la condizione di chi sta in carcere, lenire perlomeno la sofferenza che il carcere produce a chi viene detenuto, è chiaro che insomma, ha messo in luce appunto questo aspetto dell'aumento dei suicidi. Ora, il suicidio però vanno intanto alcune cifre, vi ricordiamo, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa. Allora, dal 2000 ad oggi, quindi sono in questi 17 anni, ad oggi, quindi al 20 luglio 2017, all'ultimo, sono stati 960 morti in carcere, quindi quasi 1960 morti in carcere dal 2000 ad oggi. E 2672 morti per cause non precisate, insomma non suicidi, ma morti in genere per mancanza di assistenza, mancanza di cure, sottovalutazione della patologia del detenuto, della detenuta e così via. Questi sono i dati. Il problema, gli altri dati che vanno chiaramente messi in luce, che ci permettono di capire, perché è vero, come dice Antigone, che il suicidio avviene, comunque sta dentro quell'opera di sofferenza tremenda, di emarginazione forte che il carcere produce nelle persone detenute, e quindi propone una serie di miglioramenti eccetera, delle condizioni di vita e di carcerazione, però vanno anche portati questi altri dati che ci permettono di capire e di cercare di mettere un occhio a quelle che sono le motivazioni del suicidio, perché d'accordo che appunto l'ambiente malsano, brutale del carcere può essere una concausa, non la causa principale, perché se vediamo altri dati, i numeri ve li abbiamo dati, ma il suicidio viene portato avanti in quali momenti della carcerazione? Allora, il 75% dei suicidi, quindi tre quarti, la gran parte, avviene il primo anno della carcerazione, il 34% addirittura il primo mese, e il 28%, pensando un po', nei primi 10 giorni di carcerazione. Quindi il suicidio viene tutto spostato nella primissima fase della carcerazione, il 28%, quindi quasi un terzo, entro i primi 10 giorni di carcerazione. Che cosa ci dicono questi dati? Sono numeri questi, incontrovertibili. Ci dicono che il momento più tremendo per la persona detenuta è il carcere in generale, è d'accordo, però è proprio il primo impatto col carcere. Nel primo impatto è facile capirlo, ovviamente chi c'è stato in carcere lo capisce un po' meglio, però si può con uno sforzo di immaginazione capirlo. Cioè il primo impatto è quello che, in cui una persona vive il completo sradicamento dalla propria condizione di vita, che è quella che vive fuori, bella o brutta che sia, soddisfacente oppure difficoltosa, però era la vita, ossia relazioni amicali, relazioni di lavoro, relazioni sociali, relazioni affettive, sessuali, cioè tutta una serie di cose che erano la vita reale, bella o brutta che sia, però era la vita. Nel momento dell'arresto tutto questo viene spazzato via di botto, da un momento all'altro, non è che c'è una fase di transizione, cioè una persona viene presa in genere alle 5 di mattina oppure arrestata per strada, dove sia, cioè viene presa e in quel momento viene azzerata tutta la sua vita e buttato in un posto, in un'oscura cella, in un posto chiamato, che veramente può essere chiamato il luogo del nulla, perché non c'è nulla. In un angolo buio di un carcere, che il primo impatto è l'isolamento, appena arrestato ti mettono in isolamento, addirittura in un qualche commissariato, in qualche tenenza dei carabinieri, viene buttato nelle celle di sicurezza, che sono dei buchi dove non c'è niente, non c'è intanto altre persone, non c'è nessun elemento umano, non c'è niente né di vivo né di umano, quindi viene buttato nel nulla. Questo primo impatto è devastante per qualunque persona, e di questo ce ne stanno storie raccontate dalle persone che hanno vissuto questo trauma, sono bellissime e sono veramente un momento di difficile elaborazione da parte della persona detenuta. Qualunque cosa non abbia fatto, è un momento di difficile elaborazione, cioè uno non può capire che improvvisamente gli viene completamente azzerata ogni ogni diramazione sociale, ogni rapporto con il resto dell'umanità, e viene azzerato tutto e buttato in questo luogo assurdo, dove c'è il nulla. Bene, e quindi è lì il momento più grave, più pesante. In quel caso contano poco le condizioni di carcerazione, che invece cominciano a contare quando uno entra, va in società, va in sezione dopo il momento di isolamento, che è il primo impatto, no? Uno viene arrestato, messo appunto in isolamento i primi tempi, perché bisogna capire, c'è l'interrogatorio, quindi l'isolamento giudiziario, perché fino a che non ti interroga il giudice ogni persona rimane isolata, e l'unico posto isolato che un carcere ha sono le celle di isolamento, dei luoghi allucinanti, e quindi le condizioni carcerarie cominciano a contare dopo, quando uno va in sezione, comincia a vedere le altre persone, si rende conto che sta in carcere, non sa quanto ci resterà, perché il primo periodo è non c'è ancora una sentenza. Considerate i numeri che abbiamo letto prima: se il 75%, cioè i tre quarti, la grandissima maggioranza dei suicidi avvengono il primo anno, considerate che il primo anno quasi nessuno di questi ha avuto già la condanna. Per cui la condanna, che pure è l'elemento contro cui noi, ma anche i garantisti, le persone per bene, si scagliano, perché condannare per esempio per le stupidaggini, anni di galera, per resistenza alla forza pubblica, per esempio, che è nulla, è niente, non esiste. Cioè, no, uno non può battere le mani quando una guardia ti viene ad arrestare, no? Fa un po' di resistenza, cioè fa un po' di cerca di scappare, oppure di non farsi stare, oppure non ha il sorriso sulle labbra come vorrebbero loro. Questi atteggiamenti profondamente umani, anzi è non umano chi non ce l'ha. Chi aspetta col sorriso sulle labbra le guardie che ti vengono ad arrestare ha qualche problema di riconoscersi nella specie umana. Quindi il reato di resistenza alla forza pubblica è un reato del tutto stupido, del tutto inventato, del tutto cretino, insomma, no? Eppure la gran parte delle persone, appunto, molti vengono arrestati. Il fatto che il 75% dei suicidi avvengono il primo anno, persone che non sono state ancora condannate, quindi non sanno quale sarà la loro permanenza in carcere. il 28% dei primi 10 giorni di carcerazione, che sono i giorni che passi in isolamento, vuol dire che il 28%, quasi un terzo, non sa nemmeno quali sono le condizioni di carcerazione, perché finché stai buttato in quell'angolo non sai niente del carcere, a meno che non l'hai studiato prima, non sai che quanta ore, quant'aria ci avrai, se avrai colloqui, che tipo saranno i colloqui, che mangerai, che cosa farai durante la giornata, non sai niente, e lì appunto è l'impatto forte. Ora, ragionare su questi dati, che sono numeri, è importante per capire che, certo, è giusto quanto dice Antigone, che bisogna rivedere le condizioni di... Infatti Antigone che dice bisognerà battersi per fare un nuovo regolamento carcerario più in sintonia con le esigenze delle persone detenute, e quindi per alleviare le pene. Tutto giusto, per carità, sottoscriviamo tutto, ma non è quello il cuore del problema. Cioè, è fermarsi, e non è una critica che facciamo, per carità, però un invito a riflettere, è un fermarsi alla superficialità. Cioè, la gente si suicidia in carcere in maniera circa 20 volte superiore a chi si suicida fuori, quindi con un incremento forte dovuto alla carcerazione stessa. Ebbene, noi facciamo in modo di migliorare le condizioni in carcere così calano i suicidi, però se avvengono nel primo periodo, quando le condizioni non hanno ancora logorato il detenuto o la detenuta, è chiaro che bisogna cambiare l'ottica, cioè l'attenzione va posto nel primo impatto, nel primo momento di carcerazione. Tant'è vero che la stessa amministrazione penitenziaria ha previsto il settore cosiddetti nuovi giunti. Nuovi giunti sono quelli che, appena arrivati in carcere, in alcuni carceri c'è, poi è stato diminuito questa presenza, un sociologo o una sociologa che fanno i primi giorni proprio di carcerazione, fanno un colloquio con la persona per vedere se questo nuovo giunto o nuova giunta, come si dice in termini burocratesi, cioè la persona appena arrestata, manifesta delle patologie, delle tensioni, degli stati d'ansia, eccetera. Anche perché, se poi però il sociologo o la sociologa riscontrano stati d'ansia, e secondo me quasi sempre li riscontrano se sono persone attente, è chiaro che non è che possono fare granché. Che possono fare? Possono dare una pillola, ma non c'è pillola che possa far cancellare quel trauma che uno ha vissuto in quanto è stata azzerata tutta la sua vita sociale da un momento all'altro. Quindi il problema va visto da altri momenti. Il momento dell'arresto è uno dei traumi maggiori che vive l'essere umano, ed è una delle cose più brutali. E forse è una delle cose più brutali, non so se è la più brutale, ma io veramente è una delle cose più brutali che umani legati al potere fanno ad altri umani, ed è una cosa gravissima. Si può assimilare alla tortura, perché voi veramente facciamo la prova con chiunque, che si può fare la prova con uno spettacolo, senza saperlo, degli amici alle 5 di mattina vanno a casa di un'altra persona, amico loro, mascherati, e dicono: ti dobbiamo portare via in nome della legge. È chiaro che gli pian colpa a quella persona. Ecco, questo è il problema. Il problema quindi sta lì, nel momento della primo impatto col carcere. Quello è l'elemento scatenante, il suicidio, quell'azzeramento. Considerate un altro dato, questi dati si fermano al primo anno, no? 75% entro il primo anno, il restante 25% è sempre nei primi anni, perché più si va avanti nella carcerazione, dopodiché il detenuto o la detenuta prende dimestichezza col carcere, cioè mette in moto i meccanismi di resistenza. Quelli che pure noi da questi microfoni sono 15 anni che cerchiamo di veicolare, abbiamo scritto pure dei testi, perché veramente per il detenuto o la detenuta impossessarsi di quei momenti, di quegli strumenti di resistenza, spesso collettivi, individuali e collettivi, possono fare in modo che uno non venga devastato totalmente dalla galera. Ecco, però ci vuole tempo per assimilare questi strumenti e metterli in atto, e ovviamente il tre quarti dei suicidi, poiché avvengono il primo anno, non fa in tempo, non riesce a impossessarsi di questi strumenti di resistenza e metterli in atto, e quindi è lì il quadro, è il primo impatto, è il momento della carcerazione, un fatto brutale, violento, forse è il momento più alto della violenza che degli uomini, degli umani attuano nei confronti di altri umani. Allora, riprendiamo 15:34, riprendiamo il ragionamento. Quindi il suicidio è un stato, continua a essere uno dei punti tremendi che manifestano l'insopportabilità del carcere da parte degli esseri umani che vengono buttati appunto in quell'ambiente, in quel carcere. Soprattutto nel primo momento, dell'impatto in cui una persona viene sradicata dal proprio ambiente, azzerato tutto quello che sono i suoi terminali sociali, affettivi, eccetera, e viene buttato nel nulla. E questa cosa chiaramente non è accettabile dall'essere umano. E lì, in questi primi momenti, come abbiamo visto, la devastazione è talmente alta che le persone possono essere indotte al suicidio. Questo è il punto centrale. Se si vuole combattere il suicidio, tutto il resto va bene, può servire sicuramente, migliorare la permanenza, sì, però insomma è questo il punto, il punto del primo impatto. Se non si mette sotto discussione il momento dell'arresto, del primo impatto, è chiaro che non credo che si affronti seriamente il problema del carcere. Il secondo aspetto che è successo in quest'anno è quello della ripresa dell'aumento dei carcerati e delle carcerate. Ricordate, brevissimo, chi segue questa trasmissione lo sa a memoria, l'abbiamo ripetuto mille volte. Allora, è successo tutto a parte, non per purtroppo, ed è un elemento centrale anche questo, perché è ripreso diciamo, l'aumento delle presenze in carcere, quindi di nuovo il sovraffollamento, e sta tutto nel meccanismo che ha costretto lo Stato italiano e quindi l'amministrazione penitenziaria a ridurre la presenza in carcere. Non è stato un movimento esterno, interno, lotte, rivolte, tutte quelle cose che pure in altri periodi hanno cambiato il modo di porsi dell'amministrazione penitenziaria nei confronti di detenute e detenute, ma è stato un provvedimento esterno. Sapete che la presenza delle persone in carcere in Italia aveva raggiunto 68-69 mila intorno al 2011. Allora la Corte con una disponibilità di posti che non superava i 40 mila, quindi quasi 30 mila in più. E difatti c'era il sovraffollamento raccontato anche dalla televisione italiana, da giornali eccetera, letti al castello fino al soffitto, 9 in cella, in una cella da 5 persone ce n'erano in 9 e così via, i turni per andare al bacio, cose allucinanti. Si era incrinato quel sistema, diciamo, quel, come dire, una necessità anche legale, anche fatta legge, che ogni detenuto può avere a disposizione, deve avere a disposizione più di 3 metri quadri, e si era scesi molto al di sotto dei 3 metri quadri. Da questo punto allora la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è un organismo, questo per non fare confusione, non è un organismo dell'Unione Europea, è un organismo precedente all'Unione Europea, non c'entra niente con l'Unione Europea, è un organismo che gli Stati europei hanno messo insieme perché ci fosse un'autorità superiore ai vari Stati e potesse dire: guarda che tu Stato stai esagerando, stai andando contro dei principi, contro le tue stesse leggi, eccetera, eccetera. E così ha fatto, ha detto allo Stato italiano: guarda che tu non rispetti manco le tue stesse leggi nei confronti delle persone detenute, e quindi gli ha messo una multa salatissima e poi ha detto che gli ha imposto di cambiare l'andamento delle cose, cioè quella presenza enorme in carcere doveva rallentare. Come fare, come non fare? Bene, sotto questa pressione internazionale, che poi quando la Corte Europea si muove, chiaramente i giornali degli altri paesi europei hanno preso questa notizia, questo fatto come una notizia, e tutti a dire: l'Italia è un paese del terzo mondo, peggio che in Africa, peggio che in Asia e così via, cosa abbastanza vera, cioè non peggio che, insomma, è chiaramente una critica pesante, ognuno ci ha messo anche il suo elemento di razzismo, perché c'è, purtroppo esiste. E comunque sta di fatto che, insomma, è andato un po' sulla, come dire, sulla pagina di critica del mondo giornalistico. E allora si sono sbrigati a fare i cosiddetti provvedimenti svuota carceri. L'abbiamo raccontato in man mano che uscivano fuori, il 2012, il 2013, il 2014, hanno fatto una serie di decreti che hanno permesso non lo svuotamento, ma insomma portare da 69.000 a 50.000 le presenze in carcere, quindi ridotte notevolmente. Il problema è che questi decreti leggi poi sono diventate leggi e quindi ancora esistono, non è stato abrogato nessuno, cioè sono provvedimenti che esistono. Perché, allora, domanda da farsi, perché a un certo punto queste leggi, che pure sono leggi operanti, nel primo periodo hanno operato e adesso non operano più, non permettono più quella diminuzione di presenza in carcere, facendo sì che il giudice desse invece del carcere misure alternative alle persone condannate? Oppure a un certo punto della condanna l'avvio alle misure alternative, perché non funziona più questa cosa? Beh, non funziona più proprio per quello che abbiamo detto all'inizio, poiché questo cambiamento, questo svuota carcere non è venuto a seguito di un movimento di lotta e di protesta interno e esterno che avrebbe costretto lo Stato italiano a mantenerle in attività quelle leggi allora e anche adesso e anche domani, perché altrimenti il movimento avrebbe ripreso, ma era solo appunto una norma della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che una volta rassicurata riprendono a non applicare le leggi. Il problema è questo, il problema sta in una verità assoluta che non si dice perché si ha paura di dire una verità che purtroppo è sotto gli occhi di tutti ma nessuno vuol vedere, e purtroppo camminiamo con le fette di prosciutto sugli occhi, che sarebbe meglio metterle su una fetta di pane invece, e le fette di prosciutto. Il problema è che una legge non cambia l'esistente, è il contrario, il modificarsi del conflitto interno alla società può portare a delle leggi operanti, ma è il primo che opera sul secondo, non la legge che opera sulla realtà. La legge non cambia mai la realtà, nessuna legge cambia la realtà. Se è in contrasto con un rapporto di forza esistente nella società, quindi che appunto all'interno della lotta di classe che c'è in ogni società, piaccia o non piaccia, questa è permanente, c'è sempre le classi alte, cioè chiamateli ricchi come volete, o benestanti, o quelli che sfruttano gli altri, e invece la classe bassa, cioè i poveri, gli sfruttati, i lavoratori, e queste due sono sempre in conflitto. Le forme del conflitto sono le più varie, individuali, collettive, cioè a volte non si vedono, non sono di quelle che, come gli scioperi della Fiat degli anni 70 che vanno sui giornali, però si scrivono i libri, però il conflitto c'è sempre, e l'andamento di questo conflitto caratterizza poi l'operatività o meno delle leggi. Le leggi si possono fare, in questo caso sono state fatte sotto la pressione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della stampa internazionale, lo Stato italiano le ha fatte, e hanno operato per il primo periodo quando c'era ancora questa pressione, perché la Corte Europea ha detto fate le leggi, queste leggi qua, io verifico se veramente queste leggi operano, quindi diminuiscono la presenza di persone in carcere oppure no. Siccome i primi due anni, tre anni hanno funzionato, cioè diminuita la presenza in carcere, ho detto da 69.000 si è arrivati a 50.000, ha detto va bene, bravi, continuate così. Però non ha continuato così lo Stato italiano, cioè tutta l'impalcatura che si vanno dal direttore del carcere alle guardie, a quelli che fanno la relazione, al magistrato di sorveglianza, al giudice giudicante, perché tra queste, lo ricordiamo tra parentesi, per esempio c'era una norma della messa alla prova molto interessante che diceva per condanne al di sotto dei 5 anni il giudice che emette la sentenza, quello che ti condanna, se ti dà una pena al di sotto dei 5 anni ti può mandare direttamente non in carcere, dice lei è condannato a una pena di 4 anni e 6 mesi ad esempio, ma non lo mandiamo in carcere, non va in carcere, va direttamente alla misura alternativa, ad esempio agli arresti domiciliari oppure a fare questo lavoro, lavori socialmente utili, lavoro all'esterno, queste cose qui, cioè non va in carcere direttamente ma va direttamente in misura alternativa. Poi secondo come si comporta una misura alternativa sarà invece rimarrà così e finirà la sua pena in misura alternativa oppure andrà in carcere se invece trasgredisce, fa altri casini eccetera. Ecco, questo era un, per esempio, questo ha operato i primi due anni, poi non ha operato più. Lo stesso dopo i tre, quando la fine pena raggiunge, quando uno ha tre anni a fine pena deve andare in misura alternativa, deve, il deve lo dice la legge, ma ci stanno? Vediamo i dati. Quanta gente va sotto, va in misura alternativa quando ha tre anni, gli mancano tre anni a fine carcere? Non ci va quasi nessuno, tant'è vero che il 34% di presenza in carcere, quindi più di un terzo, hanno una pena minore di tre anni, hanno una pena da scontare minore di tre anni. Quelli non dovrebbero stare in carcere. Perché ci stanno? Perché la legge non viene applicata. Voi dite, ma il problema è molto semplice, ho detto, la legge sta dentro il rapporto di forza, non è il contrario, non è che il rapporto di forza sta dentro la legge, è il contrario, questa è una falsità che permette alla gente di non ragionare. È chiaro, l'hanno raccontata, ce la raccontano da piccoli, da quando siamo bambini e bambine, ce la raccontano anche i genitori purtroppo spesso, tutti gli adulti che ci fanno crescere con queste falsità, come dire gli asini volano o la terra è quadrata. E a forza di ripeterlo, qualcuno lo diceva, a forza di ripetere una bugia diventa una verità. E alla fine ci hanno convinto, purtroppo, che invece la legge che modifica la realtà. Non è così, è la lotta di classe che modifica la realtà. Quindi il movimento di una società poi ottiene la legge, ma anche se non lo ottiene, alla fine quella cosa funziona. Molte riforme carcerarie le abbiamo ottenute con le lotte, le rivolte degli anni 70-80. Poi queste cose sono finite. E mancando il conflitto si fa pure la legge per farsi bello, oppure sta di fatto che appunto queste leggi voi riprendete, le stanno anche sull'ultimo numero di Scarceranda o se volete sui blog, dappertutto si trovano, sulle trasmissioni vecchie di Radio Onda Rossa, queste qui della Conta e anche altre, trovate tutte le leggi svuota carcere e potete vedere come mai non funziona più a partire dai dati esistenti. Allora, se ho il 34-35% di persone che sono attualmente in carcere devono scontare meno di tre anni, mentre la legge dice che dovrebbero stare in misura alternativa, perché non viene applicata quella legge? Semplicemente perché non c'è, cioè un giudice è una persona, è un cittadino di questa società, qualunque ruolo. Allora, se non c'è più la pressione internazionale, perché la Corte Europea si è tirata da parte perché ha visto che aveva diminuito le presenze in carcere, l'Italia ha fatto le leggi svuota carcere, non c'è un movimento che preme, è chiaro che coloro che rivestono ruoli di potere e che hanno tra i loro compiti, tra i loro poteri, quello di decidere della libertà o meno di una persona, sanno che se decidono per la libertà poi ci può venire quel giornale, i giornali sono al 90%, ma forse al 95% tutti di estrema destra, la televisione è al 100%, quindi è chiaro che è facile che qualche giornalista indotto da qualcuno che gli dà lo stipendio dice critica quel giudice perché ha messo in libertà qui tutti questi criminali in libertà, poi fanno tutti questi crimini, tutti questi crimini, no? che poi massacrano, muoiono da terrorismo, dimenticando anche qui i numeri dicono che in questo paese, per esempio, si muore di lavoro e sulle strade. Questi sono i grossi morti. Di terrorismo non c'è manco un morto negli ultimi anni in Italia. I morti, gli omicidi sono meno di 180, ma le morti sulle strade, i morti sul lavoro sono altissimi. Quindi tenetene conto, bisogna ragionare sui fatti, non sulle favole che questi ci raccontano e con la televisione e con i giornali, e che purtroppo la gran parte delle persone crede, come il fatto dell'acqua. Ma dai, non ci può essere una persona, ma nemmeno un bambino o una bambina di buon senso, che abbia creduto alla favola che improvvisamente il livello del lago Bracciano, che fornisce la gran quantità dell'acqua ai cittadini e alle cittadine romane, sia calato di 1,5 metri. Cioè, è avvenuto da un giorno all'altro? È avvenuto negli ultimi giorni? Oppure questa cosa va avanti da anni? Non è che un lago diminuisce di 1,5 metri, che tanto la sua superficie negli ultimi 10 giorni. Dai, non ci prendiamo in giro. Le bambine e i bambini delle scuole elementari si sono messi a ridere quando sono sentito questa notizia. Gli adulti no, non hanno sputato in faccia, non hanno detto: la prossima volta a votare ci vai tu e tua zia, noi non andiamo più a votare. Le prossime votazioni, se vedessero il 5% di persone, solo gli afficionati, quelli che gli hanno dato un posto di lavoro, gli danno qualche regalia, vanno a votare. Gli altri non dovrebbero. Dice: non ci potete prendere in giro, non ci potete dire che il lago Bracciano è sceso di 1,5 metri negli ultimi giorni, in 4 giorni, in 5 giorni, in 10 giorni, in un mese, da quando c'è la Sicilia. Non diciamo, saranno anni che va avanti, e allora perché non pensarci prima? Quando era arrivata a 0,5 metri, 70, perché non seguire quella discesa del livello del lago di Bracciano, e quindi porre il problema agli organi competenti, per sé, la CEA in primo luogo, che distribuisce utili importanti ai suoi azionisti, ma non si preoccupa manco un secondo di diminuire le perdite che le condotte di acqua hanno, perché il grosso di spreco di acqua non si ha nei rubinetti, quando dicono lavatevi poco, fate la doccia invece che il bagno, ma di che? Qui il 40% e più dello spreco si ha nelle tubature vecchie, non ristrutturate, non sostituite, che perdono grandissime quantità. Allora, essere presi in giro non è una bella cosa. Tutti i paesi abbiamo avuto regimi di destra, dittature, ma la presa in giro come adesso non si può accettare, non è umana, non siamo umani. Ecco, allora riconquistiamo almeno l'essere umani. Cioè, certe baggianate non ci crediamo più. Quindi i suicidi in carcere sono altissimi e continuano ad avvenire perché c'è un meccanismo bieco, violento, disumano, che è quello dell'arresto, del prendere una persona e sbatterla in un buco con una violenza incredibile, devastarlo, isolarlo, emarginarla. Ecco, questo porta al suicidio. Il sovraffollamento viene perché le leggi si possono fare, ne possono fare 10.000, ne potete fare 10.000, ma se non c'è il rapporto di forza, cioè il conflitto che le mantiene in opera, queste dopo un po' smettono di funzionare, ed è successo con le leggi svuota carceri. E allora siamo in chiusura di questa trasmissione, ultima puntata, diciamo, del periodo prima del periodo della pausa estiva della Conta, trasmissione contro il carcere, contro la repressione. Potete risentire le trasmissioni se andate sul sito di Radio Onda Rossa. Oggi pomeriggio troverete anche il podcast di questa. Ricordate, potete rivedere quei 7-8 punti che il Ministero ha indicato ai direttori del carcere per alleviare un po' la sofferenza provocata dall'enorme caldo, il tremendo caldo di questi giorni nelle carceri. L'abbiamo detto, se non l'avete preso appunti, perché se, essendo un'indicazione del Ministero, se i detenuti o le detenute la chiedono al direttore, questo è costretto a metterle in atto, poiché si tratta appunto di indicazioni ministeriale. Diciamo appunto, poi il problema, abbiamo provato ad affrontare il suicidio, ci sarebbe tanto da raccontare, ne parleremo ancora. Il suicidio, ricordiamo che per esempio nel 800, dove appunto c'era i due, in Europa e negli Stati Uniti d'America si svilupparono due modelli di carcerazione: quello dove stavano tutti insieme, carceri cioè dove c'erano stanzoni, cameroni enormi, ma enormi veramente, dove ci stavano 20, 30, 40 persone, una affollata una sopra l'altro, e poi il sistema cellulare, che per esempio alcuni illuministi francesi come Tocqueville, ma anche Lombroso, ma anche altre persone, cioè, gradivano quello, l'isolamento, il carcere cellulare, quello per isolamento. Ma allora il carcere cellulare significava che ciascuno aveva una celletta sola, singola, ma non usciva mai da quella celletta e stava sempre lì, e anche il lavoro lo faceva lì dentro, oppure veniva fatto uscire ma senza che incontrasse nessuno, portato in un posto dove lavorava e non poteva né parlare né dialogare, e a volte nemmeno vedere gli altri compagni di lavoro. Quindi l'isolamento, perché doveva essere soltanto la preghiera e il stare con se stessi che poteva far scoprire al detenuto, alla detenuta, diciamo, il rapporto col divino. E siccome nel carcere cellulare i suicidi aumentavano, ma anche le malattie mentali, gente che andava fuori di testa, e ovviamente, no? Potete immaginare l'isolamento, non è che e allora dicevano che quella era una punizione divina. Ecco, qualcuno diceva: hanno trovato Dio ma hanno perso l'uomo, cioè l'essere umano. Infatti si suicidavano, così arrivavano prima al divino. E insomma, vabbè, le baggianate sono state scritte tantissime. Questa che chiamiamo civiltà con la C maiuscola e che saltiamo, questa nostra dove viviamo, non per fare confronti, non ha senso fare confronti, però questa che in cui viviamo noi, che conosciamo noi, andando un po' indietro e vedendola nei momenti più centrali della sua storia, per esempio appunto il carcere, ma anche la fabbrica, quando si lavorava 14 ore al giorno, quando anche i bambini di tenera età andavano a lavorare in fabbrica perché potevano entrare sotto le macchine, che quando erano piccoli, e fare quei lavori che l'adulto difficilmente poteva fare. E, insomma, in questi due punti centrali si vede bene qual era il tasso di civiltà di questa, che ha permesso poi la grandezza di questa parte del mondo, diventare potenti, ricchi, e va bene. E questa è una realtà, quindi le cose vanno indagate un po' più a fondo, a mio avviso, non fermarsi all'aspetto superficiale, ma vedere un po' più a fondo, appunto cercando di capire i motori, i motivi di queste, di questi fatti, di questi avvenimenti dolorosi come il suicidio, dolorosi come il sovraffollamento, e cercare di operare perché ci sia un altro modo di uscire dal carcere, non con il suicidio, ma per esempio con l'evasione, ad esempio. Bene, siamo arrivati quindi alla fine di questa trasmissione. Noi vi auguriamo intanto una buona estate, a chi sta fuori, a chi sta dentro, di soffrire meno questo caldo spaventoso, che però purtroppo durerà, così dicono i meteorologi, quindi non c'è da stare allegri. E ci sentiamo mercoledì, credo, non so se è l'ultimo di agosto o il primo di settembre, comunque sintonizzatevi su Radio Onda Rossa e vedrete quando è andato in onda. E quindi buona estate, buon riposo, riflettete molto su queste cose. Chi sta fuori può riascoltarsi le trasmissioni andandole a cercare sul sito di Radio Onda Rossa. E niente, buona libertà a tutti e tutti, e speriamo che appunto sulle ali della libertà